Maledetto du momento che aggrappivo l'occhio in terra, da sto inferno, sti vint'anni di tormento, culo cori sempre in guerra, notti e giorno, terra che non senti, che non fai capire, che non dici niente, vedendomi morire, terra che non teni, compagni partiri, e niente ci doni, vi falli tornare, e chiangi fratillanza. Terra che non senti, che non fai capire, che non dice niente, vedendo me morire. Terra che non tieni, compagni morire. Ci doni mi falli tornare e chiangi no e chiangi Bianca Giovannini. Grazie a Davide, grazie, grazie Alessio, grazie a Rocco.